la Caledonia è un cosiddetto territorio d'oltremare, dom-dom nella legislazione amministrativa francese. In realtà è una vera e propria ex colonia che si trova nel Pacifico, è un arcipelago dove vive una popolazione autoctona che ha subito uno dei processi di colonizzazione prima e di soggiogamento politico più ampi e più lunghi della storia dell'esagono, quindi questo tipo di situazione che ha portato anche agli sviluppi di un fortissimo movimento indipendentista che aveva, diciamo così, un profilo anche armato, sembrava fosse stata risolta, diciamo, negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, con l'inizio di un processo che prevedeva la decolonizzazione. Tra l'altro, come ha previsto, diciamo così, una risoluzione dell'ONU nella seconda metà degli anni 80. Però recentemente questo meccanismo si è inceppato. E infatti abbiamo visto appunto proteste e anche morti in piazza in questi ultimi giorni. Quali sono le ragioni di questi sommovimenti? Due fondamentalmente, quelli recenti. Il primo è il fatto che questi serie di accordi che erano stati siglati, come ho detto prima, prevedevano la possibilità di tenuta di tre referendum in cui gli abitanti della Nuova Caledonia potessero esprimersi a favore o meno dell'indipendenza. Se ne sono tenuti due, diciamo, piuttosto regolari. L'ultimo, il secondo nel 2020, aveva dato parere favorevole all'indipendenza, qualcosa come 47% della popolazione, quindi con un ampio consenso. Il terzo, che si doveva tenere con una grossa forzatura a Parigi, Macron ha voluto tenerlo nonostante la maggioranza delle formazioni indipendentiste lo voleva posticipare perché si era in pieno Covid, e quindi si è tenuto nel dicembre 2021, che è un referendum che è stato boicottato dalla maggior parte delle organizzazioni indipendentiste che comunque sono rappresentate all'interno degli organismi politico-amministrativi dell'arcipelago, e questo è stato un primo step in cui il solco si è ampliato. Il secondo, più recente, è stato questo progetto che darebbe il voto alle persone che risiedono in Caledonia da almeno 10 anni, cioè di fatto francesi che si sono stabiliti lì nelle zone residenziali. Il numero di 20.000, con la possibilità di partecipare alle elezioni provinciali che andrebbero tenute entro praticamente la fine del dicembre di quest'anno. Questo cambierebbe di molto gli equilibri politici nell'isola ed è uno stralcio a quello che erano state le promesse fatte all'interno di questo processo di pace. Quindi, insomma, mi pare di capire che ci sia una componente, diciamo così, anticoloniale in queste rivolte, ma anche tu su un articolo su Contropiano parli anche di una sorta di guerra civile che almeno nell'atmosfera si sta respirando. Sì, perché lì troviamo la classica situazione di colonialismo da popolamento, in cui nei quartieri delestanti attorno alla capitale ci sono francesi che si stanno di fatto armando in squadre di autodifesa che difendono il territorio dove si sono installati, e poi la popolazione kanak che vive nell'arcipelago della Nuova Caledonia, che progressivamente è stata sradicata dal territorio perché non ha più possibilità di vita, è andata ad abitare i sobborghi, e quindi quello che nell'84 vedevamo un'insurrezione più come ce la ricordiamo rispetto ai vecchi movimenti coloniali che partono dalla campagna della Boscaglia, qui proprio ad assediare è proprio il centro della città. In più c'è una ragione sociale evidente, nel senso che le condizioni di esistenza della popolazione kanak non sono migliorate durante questi anni, anzi abbiamo avuto questo tipo di sradicamento. Ricordo due cose che soltanto vengono messe in analisi geopolitiche: in Nuova Caledonia ci sono i giacimenti, i quarti giacimenti più importanti di nickel al mondo, e in questo momento il Pacifico è un territorio della contesa geopolitica, quindi è chiaro che per Parigi vedere perdere un pezzo dopo quelli che ha visto perdere nel Sahel con un rapporto diverso sarebbe un grosso smacco, anche perché la zona del Pacifico comunque è interessante per Parigi.